quanto se lo facevo io. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Joe e Biddy erano pieni di comprensione e gentilezza quando parlavo della separazione imminente, ma ne accennavano soltanto se lo facevo io. Dopo colazione, Joe prese nell'armadio il mio contratto, lo portò nel salotto e lo bruciammo sul fuoco. Ed io mi sentii libero. Pervaso dalla novità della mia emancipazione, mi recai in chiesa con Joe. E pensai che forse il reverendo non avrebbe letto la parabola sul ricco e sul regno dei cieli se fosse stato al corrente di ogni cosa. Nel pomeriggio me ne andai bighellonando da solo, con l'idea di dare subito un ultimo sguardo alla palude e farla finita. Nel passare accanto alla chiesa provai, come avevo provato al mattino durante la funzione religiosa, una sublime compassione per le povere creature destinate a venire lì, una domenica dopo l'altra, per tutta la loro esistenza, e riposare alla fine ignorate fra quei tumuli verdi. Promisi a me stesso che un giorno avrei fatto qualcosa per loro e tratteggiai a grandi linee il progetto di offrire una cena a base di roast beef, plum pudding e una pinta di birra condita da un gallone di affabile condiscendenza ad ogni abitante del villaggio. Se prima avevo pensato spesso con un senso di vergogna ai miei rapporti con l'evaso che avevo visto un giorno errare zoppicando fra le tombe, quali furono mai i miei pensieri quella domenica, quando il luogo mi richiamò alla mente l'infelice tremante e stracciato, con il marchio ai ferri del criminale? Il solo conforto era pensare che tutto ciò era accaduto in un tempo ormai remoto, e che adesso egli era stato portato certamente assai lontano. Era ormai morto per me. Era forse anche veramente morto. Non più bassure umide, non più chiuse e canali, non più bestie al pascolo, sebbene ora nel loro modo ottuso sembrassero più rispettose e si rigirassero come per contemplare il più a lungo possibile il possessore di sì grandi speranze. Addio, montoni, compagni della mia infanzia. Ormai ero destinato a Londra e a una vita grandiosa, non al lavoro di fabbro e non a voi. Continuai esultante fino alla vecchia batteria, e sdraiatomi a dibattere la questione se la signorina Havisham mi destinava ad Estella, mi addormentai. Quale fu la mia sorpresa svegliandomi nel trovare accanto a me Joe, che fumava la pipa. Mi salutò con un sorriso lieto nel vedermi aprire gli occhi e disse: «Poiché era l'ultima volta, Pip, ho pensato di seguirti». «Oh, Joe, sono molto contento che tu l'abbia fatto». «Grazie, Pip». «Puoi essere sempre sicuro, caro Joe», proseguì dopo avergli stretto la mano, «che non ti dimenticherò mai». «No, no, Pip», disse Joe pacatamente. «Ne sono sicuro». «Certo, certo, vecchio mio. Che Dio ti benedica. Bastava soltanto pensarci un poco per esserne sicuri». «Ma c'è voluto del tempo per pensarci. Tanto il cambiamento è avvenuto all'improvviso, vero?» «In certo qual modo. Non ero troppo contento che Joe fosse così sicuro di me. Avrei preferito che tradisse un po' di commozione o dicesse "questo ti fa onore, Pip" o frasi del genere. Perciò non feci nessun commento alle sue prime parole, limitandomi a dire, quanto alle successive, che davvero le notizie erano giunte improvvise, ma che io avevo sempre desiderato di essere un gentiluomo e più volte mi ero chiesto che cosa avrei fatto se lo fossi diventato. «Davvero ci avevi pensato?» esclamò Joe. «È stupefacente!» «Ed ora è un peccato, Joe», aggiunsi, «che tu non abbia fatto maggiori progressi nelle nostre lezioni qui, ricordi?» «Beh, non so», replicò Joe. «Io sono tanto duro di comprendonio e sono capace di fare soltanto il mio mestiere. È proprio un peccato che io sia sempre stato così duro. Ma non è uno svantaggio maggiore adesso di quanto lo fosse un anno fa, non ti pare?» Ciò che avevo inteso dire era che quando fossi entrato in possesso delle mie sostanze e avessi potuto aiutare Joe, sarebbe stato molto più simpatico che egli fosse all'altezza di uno stato sociale più elevato. Tuttavia Joe era così sordo al senso delle mie parole che giudicai preferibile accennarne a Biddy. Così, tornati a casa e bevuto il tè, invitai Biddy a seguirmi nel nostro giardinetto di fianco al sentiero. E dopo averle dichiarato, tanto per rasserenare il suo animo, che non l'avrei mai dimenticata, aggiunsi che dovevo chiederle un favore. «Vorrei, Biddy, dissi, che tu non trascurassi nessuna occasione di aiutare Joe a progredire un pochino». Aiutarlo a progredire? E come? Joe è un bravo uomo. Anzi, io lo ritengo il miglior uomo che sia mai esistito, ma in certe cose è piuttosto rozzo. Per esempio, Biddy, nella istruzione e nelle maniere. Sebbene parlando le tenessi gli occhi fissi su di lei, e sebbene ella sgranasse gli occhi quando ebbi parlato, Biddy non mi guardò mai in viso. Ah, le sue maniere. Dunque le sue maniere non vanno? Domandò strappando una foglia da un cespuglio di more. Mia cara Biddy, vanno benissimo qui. Ah, vanno benissimo qui, interruppe Biddy scrutando attentamente la foglia che teneva in mano. Lasciami finire. Ma se io dovessi portare Joe in un ambiente più elevato, come spero di poter fare quando entrerò nel pieno possesso della mia sostanza, non gli farebbero molto onore. E non credi che lui lo sappia? Chiese Biddy. Era una domanda così provocatoria, non ci avevo mai pensato neppure lontanamente, che ribattei duramente. Biddy, che vuoi dire? Ed ella, dopo aver fatto a pezzetti la foglia che aveva in mano a furia di fregarla, e l'aroma del cespuglio di more da allora mi ha sempre ricordato quella sera nel giardinetto di fianco al sentiero, rispose: Non hai mai pensato che Joe potrebbe essere orgoglioso? Orgoglioso, ripetei con enfasi sprezzante. Oh, ci sono molte forme di orgoglio, disse Biddy guardandomi bene in viso e scrollando il capo. L'orgoglio non è tutto di una sola specie. Beh, perché ti interrompi? Non è tutto di una sola specie, riprese Biddy. Joe potrebbe essere troppo orgoglioso per lasciarsi allontanare dal posto che è nato per occupare e che occupa con piena soddisfazione sua e col rispetto degli altri. A dirti la verità, io penso che sia proprio così. Anche se la mia opinione può sembrarti ardita, dato che tu lo conosci assai meglio di me. Senti, Biddy, dissi, mi spiace molto di scoprire in te questi sentimenti. Non me lo aspettavo da te. Sei invidiosa, Biddy, rabbiosa perché la mia sorte è mutata. E non puoi fare nemmeno di lasciarlo scorgere. Se tu hai il coraggio di pensarlo, ribatté lei, dillo e ripetilo e dillo ancora. Se hai il coraggio di pensarlo. Se hai il coraggio di essere così, vuoi dire, Biddy, l'interruppi in tono saccente, non dare la colpa a me. Sono molto spiacente di riconoscerlo, ed è un brutto lato della natura umana. Io intendevo chiederti di approfittare di qualsiasi occasione che si presentasse dopo la mia partenza per educare il caro Joe. Ma adesso non ti chiederò più nulla. Sono estremamente spiacente di riconoscere questi sentimenti in te, Biddy, ripetei. È un brutto lato della natura umana. E tu mi giudichi bene o male? Ribatté la povera Biddy. Vuoi essere certo che farò tutto quanto sta in me, qui, sempre. E qualsiasi opinione tu ti sia formato di me, non cambierà in nulla il mio ricordo di te. Ma un gentiluomo non dovrebbe essere ingiusto, concluse voltando la faccia. Di nuovo le ripetei con enfasi che era un brutto lato della natura umana. E di questo mio giudizio, a parte la sua applicazione in quel caso, ho potuto in seguito sperimentare la verità. E ripercorsi il sentiero in direzione opposta a quella presa da Biddy, la quale rientrò in casa mentre io uscivo dal cancello del giardino. Passeggiai, molto avvilito, sino all'ora di cena, stupito e rattristato per la seconda volta che questa, la seconda sera delle mie belle prospettive, fosse solitaria e malinconica quanto la prima. Avevo ben poco bagaglio da portare con me a Londra, poiché ben poco di quel poco che possedevo era adatto alla mia nuova condizione. Ma quello stesso pomeriggio incominciai a far le valigie e imballai stupidamente cose che, lo sapevo, mi sarebbero servite il mattino dopo, quasi che non ci fosse un minuto da perdere. Passarono così il martedì, il mercoledì e il giovedì. Il venerdì mattina mi recai dal signor Pumblechook per indossare i miei abiti nuovi e far visita alla signorina Havisham. Per cambiarmi mi fu concesso l'uso della camera da letto del signor Pumblechook, rifornita per l'occasione di asciugamani puliti. I miei vestiti furono, come naturale, una mezza delusione. Probabilmente nessun capo nuovo e atteso con ansia da quando si usano i vestiti ha mai corrisposto, una volta indossato, all'aspettativa. Ma quando ebbi provato un numero infinito di pose dinanzi allo specchio assai minuscolo del signor Pumblechook, nel vano tentativo di vedermi le gambe, mi parve che mi stesse meglio. Era giorno di mercato in una cittadina distante una decina di miglia, e perciò il signor Pumblechook non era in casa. Non gli avevo detto con precisione quando pensavo di andarmene, e non era probabile che gli stringessi di nuovo la mano prima di partire. Tutto andava per il meglio, ma quando uscii nel mio nuovo abbigliamento, vergognandomi tremendamente di dover passare dinanzi al commesso, sospettai di avere in fondo un'aria alquanto ridicola, come gioco il vestito delle feste. Mi recai dalla signorina Havisham con un lungo giro per vie traverse e suonai il campanello con una certa difficoltà, a causa dei guanti rigidi. Fu Sarah Pocket a venire al cancello e la vidi letteralmente arretrare, vacillando, quando mi scorse così trasformato. Perfino il suo colorito di guscio di noce passò dal marrone al verde e al giallo. «Tu?» disse. «Tu, Dio buono, che vuoi?» «Mi devo recare a Londra, signorina Pocket», dissi, «e desidero salutare la signorina Havisham». Non dovevo essere atteso, perché ella mi lasciò fuori nel cortile, mentre andava a chiedere se poteva farmi entrare. Un istante dopo tornò e mi accompagnò di sopra, sempre squadrandomi, attonita. La signorina Havisham stava camminando nella stanza dalla lunga tavola imbandita, appoggiandosi sul bastone a gruccia. La stanza era illuminata come un tempo, e sentendoci entrare, ella si fermò e si volse. In quel momento si trovava proprio di fronte alla torta nuziale ammuffita. «Non andartene, Sara», disse. «Ebbene, Pip?» «Parto domani per Londra, signorina», misuravo ogni parola, «e ho pensato che mi avreste concesso l'onore di congedarmi da voi». «Ma come stai bene, Pip?» E la disse descrivendo dei mulinelli intorno a me con il bastone a gruccia, come se nella sua qualità di buona fata che mi aveva trasformato volesse accordarmi il dono finale. «Mi è capitata una grande fortuna da quando vi ho visto l'ultima volta, signorina», mormorai, «e ne sono tanto riconoscente, signorina». «Già, già», disse guardando con gioia Sara, che appariva sconcertata e invidiosa. «Ho visto il signor Jaggers. Ne ho sentito parlare, Pip. Così, parti domani?» «Sì, signorina». «E sei stato adottato da una persona ricca?» «Sì, signorina». «Di cui non sai il nome?» «Sì, signorina». «E il signor Jaggers è diventato il tuo tutore?» «Sì, signorina». Gioiva maligna di queste domande e risposte. Tanto la divertiva la gelosa costernazione di Sarah Pocket. «Bene», continuò, «hai dinanzi a te una carriera promettente. Sii buono, meritala e attenti alle istruzioni del signor Jaggers». Guardò me, guardò Sara, e il volto di Sara le strappò un sorriso crudele. «Addio, Pip. Devi conservare sempre il nome di Pip, sai?» «Sì, signorina». «Addio». Mi tese la mano. Io mi inginocchiai e la portai alle labbra. Non mi ero mai chiesto come avrei preso congedo da lei, e in quel momento mi parve naturale di agire così. Ella guardò Sarah Pocket con una luce di trionfo negli occhi folli, e lasciai la mia buona fata in quell'atteggiamento, le due mani sul bastone a gruccia, ritta nel mezzo della stanza fiocamente illuminata, accanto alla torta nuziale ammuffita, sepolta dalle ragnatele. Sarah Pocket mi accompagnò a basso come se io fossi uno spettro di cui ci si deve liberare. Non riusciva a capacitarsi del mio nuovo aspetto e il suo stupore sembrava senza limiti. La salutai. «Addio, signorina Pocket!» Ma si limitò a fissarmi. Neppure si accorse che le avevo parlato, tanto era sconvolta. Uscito di lì, corsi da Pumblechook. Mi tolsi il completo nuovo, ne feci un fagotto e tornai a casa nel mio vecchio vestito. Ben più a mio agio, a dire il vero, nonostante il fagotto da portare. Tutta la notte, nel mio sonno inquieto, passarono diligenze che andavano in luoghi sbagliati, invece che a Londra, trainate ora da cani, ora da gatti, ora da maiali, ora da uomini, mai da cavalli. Fantastici viaggi mancati mi ossessionarono, finché non spuntò l'alba, e gli uccelli si misero a cantare. Allora mi alzai, mi vestii sommariamente, mi sedetti alla finestra per guardar fuori un'ultima volta, e nel farlo mi addormentai. Biddy si mise in moto prestissimo per prepararmi la colazione, tanto che sebbene fossi rimasto assopito accanto alla finestra per non più di un'ora, l'odore del fumo della cucina, quando mi destai di soprassalto, mi fece temere che fosse già pomeriggio inoltrato. E tuttavia, ancora per molto tempo dopo aver sentito il tintinnio delle tazze da tè ed essere vestito di tutto punto, mi mancò il coraggio di scendere. Finii così per rimanere lassù, a slegare ed aprire più e più volte la mia valigetta e a richiuderla e legarla di nuovo, finché Biddy mi chiamò, avvertendomi che ero in ritardo. Fu una colazione affrettata, insipida. Mi alzai da tavola esclamando con una certa vivacità, come esprimendo un pensiero che mi fosse venuto allora allora, «Beh, penso che dovrò mettermi per strada!» Poi abbracciai mia sorella, che rideva e annuiva col capo e tremava nella sua poltrona. Baciai Biddy e gettai le braccia al collo di Joe. Infine presi la mia valigetta ed uscii. Quando poco dopo sentii un tonfo dietro di me, mi voltai e li vidi per l'ultima volta. Joe mi aveva tirato appresso una scarpa vecchia e Biddy che ne stava tirando un'altra. Mi fermai allora sventolando il cappello e quel caro vecchio Joe levò il suo gran braccio sopra la testa gridando «Urrà!» e Biddy si coprì il volto con il grembiale. Mi avviai di buon passo, pensando che partire era stato più facile di quanto avessi supposto, e riflettendo sulla brutta figura che avrei fatto se Joe avesse tirato una scarpa vecchia dietro la diligenza, in piena via maestra. Presi a fischiettare, come per non dar peso alla partenza. Ma il villaggio era silenzioso e quieto. La nebbia leggera si stava rialzando solennemente, come per mostrarmi il mondo intero. E in quel luogo io ero stato così piccolo e innocente. E che tutto, oltre quei profumi, appariva così ignoto e grande, che d'un tratto, con un sospiro e un singhiozzo, scoppiai in lacrime. Mi trovavo accanto al palo indicatore all'estremità del villaggio e, appoggiandomi la mano, dissi «Addio, mio caro, caro amico!» Dio sa che non dovremmo mai vergognarci delle nostre lacrime, benefiche al pari di pioggia sulla polvere accecante che ricopre i nostri cuori induriti. Mi sentii meglio dopo aver pianto. Più triste, più cosciente della mia ingratitudine, più dolce. Se avessi pianto prima, Joe sarebbe stato lì con me, ora. Fui così intenerito da quelle lacrime e dal loro rinnovato prorompere durante la mia tranquilla camminata, che quando mi trovai sulla diligenza, e ormai fuori di città, mi chiesi con il cuore spezzato se non dovessi al prossimo cambio dei cavalli scendere e tornare indietro a piedi, passare un'altra serata a casa e partire in ben altro modo. Il cambio avvenne, ed io non mi ero ancora deciso. Ma per confortarmi pensai che era ancora possibile scendere e tornare indietro, al prossimo cambio. E mentre ero assorto in tali riflessioni, mi figuravo di riconoscere Joe in questo o quel passante che la diligenza incrociava, e il cuore mi batteva forte, come se mai egli potesse trovarsi lì. Il cambio dei cavalli si ripeté ancora e poi ancora, ed era ormai troppo tardi. Ed eravamo troppo lontano per poter tornare indietro. Proseguì. Ora le nebbie si erano alzate tutte solennemente e il mondo si spiegava dinanzi a me. Qui termina la prima fase delle speranze di Pip.